Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate, si lamenta, ma che fatica. Sono sempre stata una tipa maldestra, lago negro nei boschi, a caccia di adrenalina. Bloccata nella bocca della clessidra, il tempo non mi tocca ma l'autostima. Mi soffoca la pelle e non respiro, è una spina. Amo, don't be sad, lo sapevi che ero un po' incasinata. Scusami se do il peggio di me, dopo mi passa. Dio non ci vede ma tu mi fai stare calma, e ti seguirò dove il mare si scontra col vento del sud. Voglio una vita a melodrama, una vita da gitana. Dopo sbaglia, prima impara. Melodrama, melodrama. Non vuole serate di gala, una drama queen in sala. Voglio le serate struccata. Melodrama, melodrama. Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, il progresso delle idee, il cambiamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 749 e parleremo di orsi shakespeariani, di balorde azioni diplomatiche, di resistenza animale, di animali domestici e del mercato collegato. La ricetta della settimana e la colonna sonora della puntata sono a cura di Gabriele Palloni, noto chef e appassionato DJ. Mamma mia che noia non ballare una festa, starsene da sola, muover solo la testa. Anzi, mo sarà un momento di panico. Sto cercando occhi che non sanno chi sono, qualche nota giusta in mezzo a quelle che sono. E mi agito quando ti vedo in un angolo. Che tu ba ba ba ba baciami stupido subito, oh ba ba ba ba, un bacio fosse anche l'ultimo, giuralo. Un bacio fra cretine, fra corsari, fra supereroi, un bacio di nascosto e la cantina, quella dove noi. Un bacio tenero per dir la verità, che va bene fra due uomini, due donne, tra due ultra. Un bacio fa miracoli e tu baci da Dio, un bacio solamente quando te lo dico io. Torniamo a parlare degli orsi del Trentino per dire di una manifestazione animalista che si è spostata di qualche chilometro, appena fuori della provincia autonoma. Il Blitz, come lo definiscono i media, è avvenuto a Verona, in un luogo speciale, la Casa di Giulietta, monumento shakespeariano visitato ogni giorno da migliaia di turisti, per la maggior parte stranieri. Alcuni militanti del movimento 100% animalisti hanno manifestato davanti alla casa con uno striscione in inglese per denunciare la politica distruttiva della giunta trentina contro gli animali liberi, in primo luogo orsi e lupi. Sappiamo che i selvatici sono da tempo nel mirino, in senso metaforico ma non solo, dei cacciatori e del presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Gli attivisti hanno detto di avere scelto per la loro iniziativa la Casa di Giulietta, con il suo celebre balcone, perché è un punto privilegiato per chi voglia diffondere le proprie idee. Nel mentre che gli attivisti si esibivano sotto la Casa di Giulietta, la provincia di Trento ha istituito un tavolo grandi carnivori che non promette nulla di buono. Si tratta di un organismo di consultazione, ma la sua composizione lascia trasparire un indirizzo ben preciso. Come domanda EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali, cosa c'entra il mondo venatorio con le strategie per il miglioramento della coesistenza fra uomo, orso e lupo, cioè la missione di questo tavolo? Che fine hanno fatto le associazioni ambientaliste e animaliste, marginalizzate, se non escluse del tutto dal tavolo? Dov'è la voce di quel mondo scientifico che dovrebbe avere una piena responsabilità sul tema della convivenza e che invece viene messo in panchina? Domande retoriche che portano a una desolante conclusione. Si corre il rischio, dice sempre EMPA, che il tavolo non sia altro se non uno strumento della provincia autonoma per creare le condizioni necessarie all'emanazione di nuovi, ulteriori provvedimenti faunicidi. Sembra l'agosto del 96, questa mattina tutti sanno che la visindiere, tu sei un po' finto borghese, ma comunque ci capiamo ed è rarissimo per me, rarissimo. Mi fai mancare l'aria quando mi rispondi, mi fai saltare in aria come gli ecomostri. In fondo perché no, potrebbe farci male. Ma gli altri, tutte storie brevi, tutte storie brevi, tutte storie brevi, tutti sono al mare e noi no, abbiamo troppe cose in ballo. You got me feeling strano, vogliamo piano piano, nel blu come due Levis, noi due gatti neri, tutte storie brevi le altre. L'uso politico degli animali non è certo una novità e non c'è dunque da sorprendersi che i media parlino di panda diplomacy per un vai e vieni di panda fra gli Stati Uniti e la Cina. Sono animali trattati letteralmente come pacchi postali e designati come simboli o simulacri di un dialogo diplomatico che avrebbe bisogno di ben altri strumenti e ben altra lucidità politica. La notizia è che la cosiddetta First Lady, cioè Jill Biden, moglie dell'attuale presidente statunitense, in un video ha celebrato addirittura come un momento storico il prossimo arrivo allo Smithsonian National Zoo di Washington di una coppia di panda giganti. Sono Bao Li, un maschio di 2 anni, e King Bao, una femmina della stessa età. Arriveranno nella capitale federale statunitense entro fine anno. Si pensi che solo 6 mesi fa lo zoo di Washington aveva restituito alla Cina 3 panda. Uno di questi sarebbe peraltro un parente di Bao Li, la femmina attesa entro fine 2024. È un vai e vieni francamente incomprensibile, che ha comportato per gli animali ulteriori sofferenze, in aggiunta a quelle, diciamo così, ordinarie della detenzione permanente. Il direttore dello Smithsonian's, Brandy Smith, ha cercato di dare un crisma di scientificità a questa balorda operazione, sottolineando il valore della collaborazione con i colleghi dell'Associazione Cinese per la Conservazione della Fauna. Finora, ha detto Smith, questa collaborazione ha avuto un impatto indiscutibile. Su questo termine indiscutibile, evidentemente, ci sarebbero molte cose da dire, cominciando a mettere in discussione le premesse di simile considerazione e la pretesa scientificità di ricerche e studi etologici condotti su animali prigionieri. Non manca naturalmente una parte economica di questa trovata diplomatica. Lo zoo di Washington ha comunicato che l'accordo con la Cina prevede un versamento annuale da $1 milione a supporto delle ricerche etologiche degli esperti di Pechino. Quanto ai panda arrivati dalla Cina, il loro destino è già chiaro. Saranno usati come oggetti da esibire a visitatori e turisti, ma resteranno, si precisa nei comunicati ufficiali, proprietà della Cina, a conferma del rango sostanzialmente di oggetti cui sono relegati. Dici che il cuore più neutrale della Svizzera a mia madre non ragionare col buco delle. Per mia sorella è imbarazzante la mia vita. Ma faccio quello che mi va. Qualcuno riderà, qualcuno pregherà per me che faccio quello che mi va. Anche se ciò che mi dicono è tutto vero e non so più se è tutto blu, è tutto nero, è tutto è tutto meno, è tutto più, è super giù, è tutto vero, è tutto Qualcuno storcerà il naso e dirà che l'amore per cani e gatti sta sostituendo il desiderio di procreazione. Lo ha fatto fra tanti altri anche Papa Francesco. Qualcun altro osserverà che anche la cura degli animali è diventato un grande business. Di certo c'è che la diffusione di cani, gatti e altri animali domestici è un fatto sociale rilevante nella moderna società occidentale. Un fatto rilevato inevitabilmente anche dagli operatori di mercato. Una recente ricerca curata da Nomisma e Zoomark snocciola anche le cifre. Tutto il mercato legato agli animali domestici, si legge, è in notevole espansione. Nel panorama internazionale, ecco i numeri, l'Italia occupa un posto di riguardo, con una crescita complessiva del settore, relativamente al 2022, di quasi il 20% rispetto all'anno precedente. La ricerca stima che le famiglie italiane spendano 6,8 miliardi di euro all'anno per il benessere e la cura dei propri animali. Il 57% di questa cifra è destinata agli acquisti di alimenti, poi c'è un 26% di spese mediche veterinarie. Il restante 17% della spesa è quindi dedicato al settore degli accessori. Un'altra cifra che fornisce la ricerca è la spesa per gli animali sul totale delle uscite delle famiglie italiane. Anche questo dato è in crescita, in particolare dopo la pandemia, registrando complessivamente un aumento di 35 punti base fra il 2018 e il 2022. Mi chiedi se sarò sincera, il vento è tiepido sulla schiena, stavi cercando me, niente ti frena. Dici che pensi tu all'atmosfera, io mi fido di te. Ma che vista da qui, avevi ragione tu. C'è il tramonto sul mare, sembra un déjà vu. E mi manca il respiro se mi balli vicino. Ora che sei qui è festa totale. Siamo spesso occupati in passato di resistenza animale, un fenomeno nascosto, quasi invisibile, ma reale, che vede molti animali protagonisti di episodi classificabili sotto la categoria della ricerca di libertà. È un fenomeno che smentisce l'idea secondo la quale gli animali chiusi negli allevamenti, negli zoo, nei circhi, in altre situazioni di prigionia e sottomissione, siano semplici soggetti passivi della loro condizione, quasi che l'oppressione non fosse tale, ma un normale ordine delle cose. Citiamo questa settimana tre episodi, presi dalla cronaca, che mostrano il desiderio di libertà e la capacità di ribellione che gli animali oppressi possono mettere in azione. La prima notizia arriva dalla Spagna, da una rena per corride. A Madrid, alla festa di San Isidro, un torero, Isaac Fonseca, di 26 anni, è stato incornato e gravemente ferito sotto gli occhi del pubblico, da un toro sottoposto alla triste esibizione tipica della penisola iberica. Il toro ha colpito l'uomo durante l'esibizione e il macabro video della scena ha fatto rapidamente il giro del web e dei social. La nostra speranza è che questo video, più che a stimolare un'insana curiosità, serva a rafforzare la riflessione critica in corso ormai da molti anni sulla pratica della corrida, già vietata in varie città e province, non solo in Spagna, ma ancora considerata dai più una sorta di patrimonio culturale intangibile. Il torero Isaac Fonseca è stato ricoverato in ospedale nel reparto di terapia intensiva, ma non è in pericolo di morte. E speriamo che possa rimettersi al più presto e che quanto accaduto sia anche per lui motivo di una riflessione profonda. Un'altra notizia ci porta ancora fra i tori, ma senza arene e senza spettatori. L'episodio è avvenuto in un allevamento in provincia di Avellino. Un uomo di 48 anni è stato aggredito da uno dei suoi tori e ha riportato alcune fratture, la più grave a una gamba. Nei notiziari si è subito detto che non sono chiari i motivi dell'aggressione e che la dinamica deve essere accertata, ma noi crediamo di sapere, almeno, in quale scenario collocare la notizia, quello appunto della rivolta, sempre latente, quando un individuo è costretto in uno stato di privazione della libertà, che sia un umano o no, poco importa. Dovremmo imparare a pensare agli animali non umani non solo come esseri senzienti, ma anche come individui desiderosi d'essere liberi, non soggiogati, come soggetti capaci di decidere della propria vita. È un passaggio culturale, filosofico, anche psicologico, tutt'altro che banale, ma necessario. La terza notizia ci porta in Germania, ed ormai è un classico. L'animale che fugge dalle gabbie dello zoo e si mette a correre per le vie della città. È successo stavolta a Stoccarda, protagonista un cammello, fuggito dal circo Atlanta, approfittando dell'interruzione della corrente elettrica, causata da un cortocircuito. Il cammello ha iniziato a passeggiare indisturbato, vagando un po' alla cieca, per la città tedesca. Ad avvertire la polizia dell'insolita scena sono stati alcuni passanti, che hanno incrociato l'animale mentre stava facendo slalom fra le macchine. Le forze dell'ordine hanno dovuto chiudere alcune strade per evitare che ci fossero incidenti. Alla fine un guardiano dello zoo del circo è riuscito a catturare il cammello e a riportarlo indietro. Noi non ci stanchiamo di insistere sull'anacronismo dei circhi con animali, sulla necessità di superarli, in modo da rilanciare l'arte circense in forme nuove, senza impiego di animali, nel rispetto della vita e della dignità di ciascuno. È questione di pratica, camminare sui tacchi a spillo, tanto sai che poi capita, fanno male neanche a dirlo, così come la pubblicità, così come la politica, quando ormai ci si abitua a tutto, anche a un mondo ormai distrutto, e allora canto. Di musica senza fermarsi, cercare un'ebbrezza, mettersi sopra una Cadillac col vento che ti accarezza, ci vuole scioltezza, ci vuole carisma, darsi da soli gli stimoli e infine brindare ad ogni conquista, dare un'occhiata veloce ma poi non fermarsi dal correre in pista, ci vuole carisma, ci vuole scioltezza, ci vuole carisma, ci vuole equilibrio, ci vuole lo stile. Anche stavolta, come tutte le settimane, Gabriele Palloni, il nostro vegan chef, autore fra gli altri del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, ci regala una ricetta rigorosamente non violenta ispirata ai temi trattati nella puntata. Sentiamo che cosa ha scelto. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Non so cosa abbia fatto innamorare Romeo di Giulietta e viceversa, ma secondo me su quel balcone veronese uno dei due aveva preparato le fritole all'altro. Gli ingredienti per le fritole sono 250 g di farina, 125 ml di latte vegetale, 30 g di zucchero di canna più altro per spolverare le frittelle, 15 g di farina di ceci stemperati in 40 ml di acqua, un pizzico di curcuma in polvere, scorza di limone, 8 g di lievito di birra, 100 g di uvetta e olio per friggere. Fate sciogliere e attivare per qualche minuto il lievito di birra nel latte vegetale tiepido. Impastate metà della farina con il lievito e lasciate riposare per 20 minuti coprendo con la pellicola. Recuperate l'impasto e aggiungete la pastella di farina di ceci e quando sarà ben incorporata aggiungete lo zucchero, la curcuma, la scorza di limone grattugiata e la restante farina. impastate bene fino ad ottenere un composto omogeneo. Infine unite anche l'uvetta che avrete precedentemente ammollato e asciugato. Coprite l'impasto con la pellicola e fate lievitare per un'ora nel forno spento con la sola luce accesa. Trascorso il tempo necessario, scaldate l'olio e con l'aiuto di due cucchiai formate delle palline che friggerete in immersione fino a quando saranno ben dorate in superficie. L'olio non deve essere troppo caldo, altrimenti l'interno resterà crudo. Scolate e fate asciugare su carta per frittura, quindi fatele rotolare nello zucchero e servite le vostre frittole. Diglielo a questa splendida moon che da domani non torno più. Sarà destino, sai bene, che se ci siamo io e te è perché il mondo è piccolo. Chiudiamo leggendovi un brano singolare, scritto più di 100 anni fa, da Marie Huot, una scrittrice attivista libertaria francese, compagna di lotte di Louise Michel, la notissima donna politica protagonista, fra le altre cose, della Comune di Parigi del 1870 e antesignana del moderno animalismo. Huot fu compagna di Louise Michel anche in questa sua speciale attenzione. Il brano in questione fu pubblicato sulla Revue Socialiste nel luglio del 1887 con il titolo Les droits des animaux, il diritto degli animali, ed è stato pubblicato sul numero della primavera 2024 della rivista Liberazioni, rivista di critica antispecista. Uovi parla della contrarietà alla vivisezione e della necessità di riconoscere dei diritti anche agli animali non umani, un testo molto avanzato per l'epoca. Davvero rivoluzionario. Ve ne leggiamo la parte conclusiva. Per tornare alla nostra questione, dice Huot, penso che le persone impassibili, che non hanno amato, sofferto o pensato, che non hanno mai avuto nel loro cuore né un'ingiuria né una ribellione di fronte a un'ingiustizia o a una tirannia, che non hanno mai sentito l'indignazione vendicativa armare il loro braccio né il dolore martoriare il loro cuore, ritengo che queste persone abbiano la capacità di ridere di quella toccante fraternità che si stabilisce fra un essere umano e un animale in circostanze dolorose. Queste persone possono anche ridere dei casi in cui un uomo isolato, ferito, disperato, non trova altro conforto che la fedeltà e l'affetto di un cane, e dei casi in cui la bestia abbandonata e ferita sembra avere contro di sé la ferocia di alcuni, l'indifferenza di altri, l'oblio di tutti, e non avere altro a salvarla che la compassione di una sola persona in tutta l'umanità. Tutto concorre, tutto cospira a fare dell'animale un essere miserabile e torturabile a piacimento. La gola, più che la fame, ci spinge a sacrificarlo con raffinatezze di crudeltà, e la nostra cupidigia ci spinge a sfruttarlo eccessivamente nel lavoro. La stupidità a tormentarlo per farne un oggetto di divertimento e di curiosità scientifica, e l'egoismo a trasformarlo nei laboratori in carne da bisturi e in reagente quando si tratta di sperimentare veleni che provocano convulsioni e morte. E per finire, al culmine, la nostra vigliaccheria ci spinge ogni giorno ad abbandonarlo o a sacrificarlo, ogni volta che la sua presenza ci infastidisce, ci ripugna o semplicemente non ci piace. Ora, di fronte a questo comportamento dell'uomo nei confronti dell'animale, la conclusione logica che si deduce da un ragionamento morale è questa: proteggere la vittima dal carnefice e, in virtù delle leggi compensative, giungere attraverso la compassione all'amore di tutti gli esseri tiranneggiati e all'odio di tutti i tiranni. Quest'odio che proclamiamo e che provoca l'irritazione dei nostri detrattori non si traduce tuttavia né in vendetta né in rappresaglie. Perdona all'incosciente che immola con indifferenza i tristi martiri delle sue rudi passioni. Perdona al bruto, non addolcito dall'educazione e non ammorbidito dalla sventura, i colpi furiosi che la sua rabbia fa piovere sulla bestia schiava. Ma ai pontefici della scienza, agli iniziatori del pensiero, chiede conto del sangue versato, perché costoro non ignorano l'abominio del sacrificio che consiste nel torturare l'animale, avendo constatato la sua capacità intellettuale e la sua parentela evidente con l'uomo. Alcuni credono di essere esenti da qualsiasi biasimo perché rimangono spettatori impassibili, sulla soglia di una prudente riserva. Pensano di sfuggire al peso della responsabilità dicendo: se non faccio il bene, almeno non faccio il male. La vigliaccheria di questi codardi nasconde a malapena la loro complicità. Una simile apatia è altrettanto criminale. E poi, in verità, la moralità non tiene conto delle qualità negative e il progresso non ha bisogno di coscienze eunuche. Tutti hanno bisogno di sentimenti altruisti. L'idea non deve cristallizzarsi nella teoria, ma realizzarsi nella pratica. Per annientare il passato e veder fiorire l'avvenire, la pietà sia apostolato e la bontà sacerdozio. Era un brano da un testo di Marie Huot, apparso sulla Revue Socialiste nel luglio 1887 e tradotto per Liberazioni da Benedetta Piazzesi. Passeggio tutta sola per le strade, guardando attentamente i monumenti, la classica straniera con un'aria strana che gira stanca tutta la città. A un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino, sembrava a prima vista tanto per benino, si offre a far da guida per la città. Pedro, Pedro, Pedro, questa settimana è tutto. Vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Gianluca Masala, Gianni Ferrarotti, Zenone Sovilla, Gabriele Palloni e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.